prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Io sono di quelli che ha avuto difficoltà, perché vengo da una famiglia non benestante, anzi tutt'altro, cioè non eravamo poveri, però eravamo, sai, una classica famiglia, uno stipendio, mio padre faceva il poliziotto e tre figli, insomma, quindi insomma si stava molto attenti a, ecco, ovviamente la mia famiglia dove le disposizioni artistiche vengono giustamente un po' bloccate, perché sai, sono quelle famiglie in cui comunque l'idea è quella che bisogna guadagnare lavorando, con lavori seri. Il lavoro artistico non è visto come un lavoro serio all'inizio, no, da un genitore, specialmente da un certo tipo di genitore come era mio padre, che insomma da appunto che era andato via di casa a 18 anni dalla Calabria per venire a lavorare a Roma come poliziotto. Quindi sai, per loro, per questo tipo di persone, giustamente il lavoro d'artista è visto come un lavoro senza radici, senza basi, senza possibilità, oppure con poche possibilità, insomma, ecco. E non aveva neanche tutti i torti, perché è un mestiere difficile, non è detto che tu abbia successo, è un mestiere che prima che cominci a guadagnare passa tanto tempo, cioè è un mestiere che insomma all'inizio è dura, insomma, se sei sostenuto da una famiglia diventa più facile, ma se non lo sei è più dura. Era otto il passerotto pieno di felicità, questo numero pieno otto che ha iniziato a spolastar, e sui platanismi pini qual provetto aviatore, e gli amici suoi uccellini lo salutano con ardore. Perché otto diventa un passerotto? Perché è una favoletta, Lillino caro. No, non gli piaceva essere un otto? Ma gli piaceva una cifra essere un otto, solo che sai come succede nelle favole, c'è la fatina con la bacchetta magica e otto diventa un passerotto. Però Pasquale Petrolo, in arte Lillo, cresce a Roma. La sua è una famiglia normale che incontra qualche difficoltà economica e che indirizza il figlio a sogni concreti, lavori solidi. Ma Lillo ama disegnare fumetti e con non poche difficoltà riesce ad affermare il suo sogno sino ad affrancarsi dalla famiglia. Eppure quella non è ancora la strada. Nella redazione in cui lavora incontrerà infatti un amico, che diventerà un amico storico col quale fonderà Per Gioco, Il Latte e i suoi derivati, un gruppo rock demenziale del quale state sentendo Otto il Passerotto. La favoletta di Otto il Passerotto è carina, questo è solo l'abbrivio, invece adesso c'è tutto lo svolgimento, il momento topico, è proprio bellina assai, capito? Sentila Lilla, senti. Era l'otto il passerotto, ebro di felicità, un po' Gianni, un po' Pinotto, che ha iniziato a decollar, e sorvola come un razzo sette le montagne. Sette pepette. Che cos'è il pepette? Fa rima, sette pepette. Ma non esiste, deve essere una cosa che esiste e che faccia rima, come otto il passerotto. Sette pepette, fa rima, stacce. Lillino, fa rima, ma non c'è, perché non esiste, quindi non c'è. Non c'è in questa favola e non c'è. Eravamo in un campo similare, perché comunque facevo fumetti umoristici, quindi insomma diciamo l'impeto di comunicazione, di espressione, diciamo, era quello comico comunque, insomma. Poi io poi tra l'altro anche Greg, infatti siamo conosciuti in una redazione di fumetti, quindi. E poi la casualità ha voluto che da lì siamo passati ad esibirci così per divertimento in alcuni locali con la band Atteso Derivati, che è appunto la band musicale comica, però, e da lì è nato tutto. Però è tutto casuale, insomma, diciamo che se non avessimo avuto quel grosso successo che abbiamo avuto a Roma con questa band comica, chiamiamolo teatro canzone comico, con Di Latte e suoi derivati, probabilmente avremmo continuato a fare i fumetti, ecco. Insomma, è stato tutto abbastanza casuale. Poi è ovvio che ci siamo ritrovati comunque a fare un lavoro che ci piaceva, che ci dà soddisfazione e tutto, però ripeto, non è stata cercata la cosa, è stato il pubblico a deciderlo, perché quando abbiamo visto poi che avevamo questo grande seguito, ci è venuto di continuare ad andare avanti. Quindi con Il Latte e i suoi derivati avete cominciato a esibirvi davanti a un pubblico praticamente di volta in volta sempre più fedele e numeroso. È valso a quei tempi proprio il classico passaparola. È vero che all'inizio suonavate praticamente solo d'estate alla Dispoli, nel locale che si chiamava Bibappa Lula, è così? Allora, la Dispoli era uno dei tanti locali dove andavamo, cioè diciamo a Roma avevamo il Fonclea, però sì, quando andavamo l'estate per esempio andavamo spesso lì a questo Bioplula, sì. Ecco, di fatto la crescita e il successo dei derivati hanno poi segnato il suo percorso, anche quello del suo compagno di lavoro. Eravate una sorta di Elio e le Storie Tese, a livello però romano. Ma noi abbiamo fatto la stessa trafila loro, grosso modo, perché loro hanno cominciato anche loro nei piccoli locali, nei club milanesi, hanno avuto lo stesso diciamo, tipo di storia, perché anche loro hanno cominciato con un grande successo locale che li ha portati appunto a un successo nazionale, però anche loro come noi hanno cominciato nei piccoli locali dove facevano musica dal vivo quindi iniziando proprio con una piccola cosa che poi si è ingrandita, ecco. Quello su cui avete sempre lavorato dagli esordi ad oggi è una comicità surreale, il non senso portato a un livello direi quasi sublime. Ecco, all'inizio avete quando suonavate avevate una forma di comicità demenziale molto forte, a volte quasi fin troppo forte, un po' spinta. Oggi mi sembra che vi siate completamente ripuliti, avete una forma molto più elegante. Hai ragione, cioè, noi abbiamo iniziato che eravamo un po' più tra virgolette demenziali, però in realtà non lo siamo mai stati a fondo, cioè anche nelle prime cose c'erano alcuni brani che facevamo, per esempio, perché parliamo di brani, perché comunque erano canzoni quelle che facevamo con la trilogia, alcuni brani erano molto, molto demenziali, surreali, quasi nonsense, alcuni no, erano più parodistici, cioè lì per esempio in alcuni andavamo a prendere di mira, che ne so, tipo uno stile, sì, tipo lo stile sanremese o lo stile, che ne so, esageratamente rock, oppure lo stile fighetto, cioè erano fatti di parodia musicale. Poi delle volte sì, qua e là avevamo anche delle cose surreali dimensionali, cioè in realtà non era una cosa ben precisa, erano, diciamo, il senso era far ridere di base, però poi certo noi tendiamo di base anche per una questione proprio di passioni nostre, di gusti nostri, ad andare su un po' sul surreale, sull'etereo, insomma, non abbiamo mai cavalcato una comicità legata troppo all'attualità ai riferimenti molto realistici, cioè abbiamo sempre comunque fatto una comicità un po' lunare, comunque anche questo, anche tuttora, insomma. Lavorare in coppia presuppone una sintonia praticamente totale, oppure nel vostro caso diciamo c'è più il tema del conflitto, del rapporto conflittuale? Cioè soprattutto secondo me quando si elaborano degli sketch si dovrebbe lavorare sul proprio vissuto, quindi in qualche modo due comici che lavorano sempre insieme devono essere simili, è così? Ma sì, ma guarda, fondamentalmente è stato anche il motivo per cui ci siamo uniti poi a fare delle cose insieme, che ci siamo scambiati le nostre passioni. Sai, quando ti incontri una persona, diventi amico di una persona, cominci a parlare di quello che ti piace, quello che ti appassiona. Abbiamo scoperto che avevamo, diciamo, gli stessi gusti, cioè pure sia io che lui eravamo grandi appassionati della comicità, chiamiamola ebraico-americana, cioè quella comicità un po' surreale, un po' demenziale, che è quella appunto del primissimo Woody Allen, quella dei fratelli Marx addirittura ancora prima, quella di Mel Brooks che è venuto dopo, quella dei fratelli Zucker, che per capirci sono quelli dell'aereo più pazzo del mondo, Top Secret, quel genere lì. Poi ci piacevano anche ovviamente molti italiani, i primi Tognazzi e Dianello, che erano molto surreali, i primi Cochi Renato, che erano anche loro molto surreali, Giancattivi. Diciamo che noi ci siamo inventati, noi risultiamo originali perché cavalchiamo un tipo di comicità che qui in Italia cavalcano in pochi, però in realtà non è che ce la siamo inventati a noi, in Italia la facevano negli anni 50 appunto, per esempio Tognazzi e Dianello, quindi diciamo che è un tipo di comicità che poco cavalcata, si va più facilmente, i comici sono più, si sentono più facilitati forse ad andare verso l'attualità, invece diciamo noi da grandi appassionati di quel tipo di musica lì, di umorismo là, ci siamo buttati su quell'umorismo e questo ci ha anche aiutato ad aprirci una strada più personale, ecco. È vero che all'inizio andare in TV la imbarazzava? Ho letto questo all'interno di un'intervista. Ma noi noi in realtà quando abbiamo fatto la prima cosa, diciamo, che ci ha dato una notorietà nazionale, che è stata Le Iene, no? Noi Le Iene, quando siamo stati chiamati per Le Iene, noi eravamo appunto un gruppo molto conosciuto nel Lazio, ma solo nel Lazio, nel senso che non eravamo molto conosciuti. Le Iene inizialmente ci sembrava una cosa, diciamo, fuori il nostro stile, perché non, appunto, non trattando d'attualità. Allora lì devo dire che sono stati molto bravi gli autori a darci, a farci fare quello che preferivamo fare noi, quindi andare anche in quel senso su delle cose più assurde, più demenziali, più surreali. Quindi abbiamo creato dei servizi che erano nel nostro stile comunque, tra l'altro servizi di successo, perché insomma diciamo che facevamo veramente un grande ascolto, e quindi, però ripeto, insomma, diciamo, abbiamo avuto la fortuna quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre, che gli autori e chi ci ha chiamato ci ha lasciato un po' fare quello che preferivamo fare, che ci veniva meglio fare. Beh, forse anche perché hanno riconosciuto lo spessore, insomma, di voi due, cioè la capacità di potervela gestire, questa libertà anche. Beh, diciamo che noi facciamo delle proposte, le portavamo, funzionavano, e quindi siamo proprio da lì, siamo andati avanti. Ovviamente dipende molto da quello, cioè se avessimo fatto dei servizi non convincenti forse avremmo ci avrebbero stoppato, però certo. Insomma, alla fine devo dire che erano cose effettivamente comiche, divertenti, non erano poi così strane come uno poteva pensare, allora siamo andati avanti. Monge, alimenti naturali per cani e gatti con tanta carne fresca italiana, vi presenta La prima volta. Quella di oggi è una storia di una coppia di amici, Lillo e Greg, che si conoscono per caso in una redazione dove entrambi disegnano fumetti e che per gioco inventano una band di rock demenziale. Un gioco che si trasforma rapidamente in un successo incredibile. I due amici diventano nel tempo una coppia di comici all'altezza di Vianello e Tognazzi, Cocchi e Renato, amici capaci di trasformare il non senso in una metafora della vita, dove il fraintendimento svela verità altrimenti inespresse, come in questa gag. Insomma, la vita va a meraviglia, tutto benissimo, veramente è un periodo fantastico, guarda. Al lavoro va, ti dico, alla grande, chiudo contratti su contratti, pensa che il capo mi vuole promuovere e raddoppiare lo stipendio, pensa, perché vabbè, sto facendo delle performance effettivamente molto molto significative, quindi, ma poi la salute, mi sveglio la mattina che c'ho un'energia pazzesca, non so, faccio sport, mi va di fare tante cose, riesco a dormire quel tanto che basta e poi mi sveglio già pieno di forza, guarda, un periodo fantastico. E poi con Tiziana, ci siamo reinnamorati un'altra volta come due adolescenti proprio. Ti ricordi il periodo di crisi che c'è stato con lei, no? Adesso niente, due sedicenni, ci vogliamo bene, ci siamo riscoperti, è un periodo veramente fantastico. Io non ti vedo bene. Vabbè sì, forse un po' esagerato, ma diciamo che il lavoro va abbastanza bene. Certo, la crisi si sente, però insomma riesco a barcamenarmi, insomma posso ritenermi soddisfatto, ecco. Per quello che riguarda la salute, no, gli anni si cominciano a sentire, per carità, c'è qualche acciacchetto, qualcosa, è normale, non sono più un giovincello, però no, non mi posso lamentare, c'è gente della mia età che sta ancora anche peggio, insomma, con sciatiche, cose, quindi insomma va bene, non è un problema. Con Tiziana poi ci salutiamo, adesso abbiamo ripreso a salutarci, la sera quando rientro a casa lei mi saluta, la mattina quando esco la saluto, lei mi risponde, insomma non mi lamento, va abbastanza bene, ecco. No, non ti vedo bene per niente. Sta una merda, per un periodo orrendo, guarda. In realtà mi hanno licenziato, ti rendi conto? Dopo 30 anni di lavoro mi hanno licenziato, adesso sto in mezzo alla strada, non ho un lavoro, non ho niente, non so più a chi chiedere soldi in prestito, li ho chiesti a tutti gli altri conoscenti, a te ancora non li chiedo perché siamo troppo amici, mi vergogno, sto in soggezione, e quindi è un disastro. Poi niente, con Tiziana è veramente finita praticamente. Lei adesso mi vede come un fallito, già mi detestava prima, adesso mi dice sei un fallito, fai schifo, non riesci a fare niente, ci insultiamo, siamo arrivati anche alle mani. Ti dico, guarda, e poi la salute è un disastro, c'ho la tachicardia, c'ho veramente, la notte non dormo più, ogni notte, ecco, mi viene così, respiro affannato, mi sveglio in piena notte e non riesco a riprendere il respiro, allora mi sento come se stessi scoppiando, morendo proprio, guarda, pure adesso, ecco, mi sto sentendo male anche adesso, scusa Greg, posso andare a prendere un bicchiere d'acqua? Posso? Sì, scusami, sì. È che sto malissimo, scusa. Pronto? Ottica Melchiorre? Sono Gregori? Io sono venuto questa mattina a tirare un paio di occhiali da vista. Esatto, sì. No, non vanno bene. Io non vedo bene per niente. No. E adesso sto qui con un mio amico, lo vedo tutto sfocato, non so se sono gli assi fuochi, non me ne intendo. Soltanto che non vedo bene per niente, quindi io gli dico, a che ora chiudete? Quella di Lillo è la storia di un ragazzino romano che ha saputo sempre ridere per primo di se stesso. Guarda, io sono di quelli che ha avuto difficoltà, perché vengo da una famiglia non benestante, anzi tutt'altro, cioè non eravamo poveri, però eravamo, sai, una classica famiglia, uno stipendio, mio padre faceva il poliziotto e 3 figli, insomma, quindi insomma si stava molto attenti a, ecco, ovviamente la mia famiglia dove le disposizioni artistiche vengono giustamente un po' bloccate, perché sai, sono quelle famiglie in cui comunque l'idea è quella che bisogna guadagnare lavorando, con lavori seri. Il lavoro artistico non è visto come un lavoro serio all'inizio, no, da un genitore, specialmente da un certo tipo di genitore come era mio padre, che insomma appunto che era andato via di casa a 18 anni dalla Calabria per venire a lavorare a Roma come poliziotto. Quindi sai, per loro, per questo tipo di persone, giustamente il lavoro d'artista è visto come un lavoro senza radici, senza basi, senza possibilità, oppure con poche possibilità, insomma, ecco. E non aveva neanche tutti i torti, perché è un mestiere difficile, non è detto che tu abbia successo, è un mestiere che prima che cominci a guadagnare passa tanto tempo, cioè è un mestiere che dove insomma all'inizio è dura, insomma, se sei sostenuto da una famiglia diventa più facile, ma se non lo sei è più dura. Però devo dire che da una parte io ho avuto ho insistito, poi mi sono insomma anche un po' pagato da solo le mie cose, perché comunque facevo dei lavoretti per pagarmi i miei interessi artistici e non mi hanno poi insomma alla fine contrastato più di tanto, insomma. Però certamente, specialmente con mio padre, c'è stato qualche problema, cioè lui pensava che ovviamente non diceva, guarda, non vai da nessuna parte, mi diceva devi fare un lavoro serio, un lavoro che ti dà una certezza economica e tutto. Poi poverino, è anche successo che mio padre purtroppo è venuto a mancare un po' presto, per cui non si è goduto il fatto che io ce l'abbia fatta. Che ce l'abbia fatta, e questo mi dispiace, perché sarebbe stato ovviamente felicissimo, perché ripeto, lui non è che non voleva farmi fare quello che amavo fare, che era proprio nella mentalità di un genitore di quel tipo dire no, cioè cerca di trovarti un lavoro serio che ti dia una sicurezza economica, ecco. E invece sua mamma ha fatto in tempo a vederla venuta agli spettacoli? No, purtroppo no, perché è venuta a mancare molto presto, e quindi io quando lui se n'è andato era diciamo, e io stavo agli inizi ancora, stavo iniziando a fare i fumetti all'epoca, quindi insomma cominciavo a lavoricchiare, ma sempre con molta fatica, quindi diciamo che no, poverino non ha avuto questa gioia, però vabbè, insomma, sta di fatto che a un certo punto, diciamo, che lui mi aveva un po' lasciato fare, insomma, ha detto va bene, ok, se questa è la tua idea provaci. A un certo punto eravamo arrivati a questo compromesso. E ha avuto ragione, perché alla fine tutto ciò che avete fatto ha avuto un successo strepitoso. A proposito di successo, 610, che è una trasmissione radiofonica davvero bella, sta andando anche molto bene. Ecco, le volevo chiedere, com'è lavorare in radio dopo anni di teatro e TV? Ma io la radio, guarda, è stata una bellissima cosa, perché non la conoscevo, cioè, e tra l'altro non avevo per niente autostima di me come personaggio radiofonico. Quando ci hanno proposto il programma io ero contrario, perché ho detto guarda, è un lavoro difficile, è un lavoro dove non puoi aiutarti con la mimica facciale, e pensavo veramente non è per me, nel senso, è difficile, è una cosa che bisogna imparare a fare. Ho sempre avuto un certo rispetto per la radio, perché lavori solo con la voce, non è una cosa facile, non hai altri mezzi, hai solo la voce e l'intonazione per comunicare qualcosa. E, però pure lì è successo come, come delle volte capita, che abbiamo fatto questo programma di prova all'inizio e niente, invece è stato l'amore a prima vista, cioè io mi sono innamorato della radio, me ne sono innamorato tuttora ed è credo un mezzo che non abbandonerò mai, sì, perché è veramente un mezzo meraviglioso, perché sì. Poi è molto adatto alla nostra comicità, perché noi appunto facendo una comicità un po' surreale, la radio ti aiuta in questo, perché se tu devi, ti faccio un esempio, simulare un'intervista a un alieno, se lo fai in TV devi costruire un alieno finto e quindi diventa tutto posticcio, quindi poco credibile e quindi poco divertente, mentre invece se lo fai in radio l'ascoltatore se lo immagina questo alieno, immaginandoselo gli dà una verità, una realtà che fa diventare tutto più magico, capito? Sì. Adesso in questo momento oltre alla radio c'è anche il teatro, perché siete in scena con Il mistero dell'assassino misterioso. Ecco, una cosa che mi ha incuriosito è che nella locandina c'è scritto che alla fine degli spettacoli ci sarà un pezzo inedito di Pupazzo criminale. Ecco, di che cosa si tratta? No, Pupazzo criminale, guarda, è una delle tante cose che abbiamo fatto come per le altre, per divertimento nostro, cioè nel senso di divertirci abbiamo fatto questi pupazzi tipo Muppets, che sono un po', che hanno questa particolarità di comunicare come se fosse un romanzo criminale, quindi con questo linguaggio molto duro da delinquenti di periferia, in realtà sono delle ranocchiette, dei topini, cioè sono personaggi ovviamente appunto stile Muppets. L'abbiamo fatto, l'abbiamo messo in rete così nel nostro canale YouTube, ma gioco per eppure lì niente, cioè a un certo punto non ha fatto tante di quelle visualizzazioni che il pubblico è quasi costretto a farla diventare una serie, e infatti adesso come quando possiamo la facciamo, la mettiamo in rete, e ci sarà invece per lo spettacolo un cortometraggio inedito di appunto di Pupazzo criminale che fa molto ridere, è molto divertente e così, e quindi lo proiettiamo diciamo come regalo alla fine dello spettacolo. La prima volta termina qui, grazie per essere stati con noi, se volete riascoltare questa o altre puntate andate sul sito di Radio 24, cercate La prima volta, lì trovate tutti i riferimenti, l'indirizzo email, la pagina Facebook per mettervi in contatto con noi. Buona domenica a tutti, da Cristina Carpinelli.